Buonasera. Buonasera. Radio non è ben comprensibile. E adesso? Segnale a manetta, adesso andava un po' meglio. E adesso avvicina il microfono. Si sente il beep bene, però la voce è un po' compressa. E il microfono amplificato questo. Che comunque io sono Carlo. Ciao Carlo, ben sentito. Alessio da questa parte. Alessio, da dove stai modulando? Qua, Carbonazzi. Allora siamo vicini, io sono a Luna e Sole. Ah, già va bene, già sei vicino allora, a Olbia. Sì, adesso è più comprensibile di prima, al primo contatto si sentiva molto compressa, però adesso il segnale è al massimo, la radio era, però adesso ha migliorato. Ho capito, meglio così, sono contento. Microfono nuovo? No, sempre uguale, sempre microfono da tavolo. Fissa delta. Allora è ben amplificato perché magari si sentono un po' di rumori di fondo, quello è naturale. E la ventola del CS, dell'alimentatore più che altro. No, ho capito, sì, può essere, perché in effetti è un rumore in continuo, no? Come apri la portante, c'è il sottofondo, quindi può essere sicuramente quello della ventola. La ventola sì, purtroppo fa casino questa ventola qua. Bisogna che la trasferisco dentro un coso, un alimentatore più grande in modo che assorba il rumore. E io in passato ne avevo uno così di alimentatore, faceva troppo chiasso la ventola, disturbava anche parecchio, anche senza modulazione, la sentivo dalle altre camere addirittura, quindi l'ho eliminato e adesso ne ho uno senza la ventola. Sì, ce l'ho, un alimentatore grande, adesso devo solo piazzarli, è già piazzato, devo solamente cercare una vite più lunga e metterci ponti di diodi, ponti di grezza in plastica e riaccendere l'alimentatore, capito? Solo che non ho avuto voglia e quindi, capito? Il discorso è quello lì, se no già la ventola già non si sente. Attacco l'FM500S e la ventola non la senti più perché è agganciata un'altra baracchina. Questa assorbe molto di più e lo trovo ad agganciare il 20A, capito? Ho capito, beh, con tutti quegli ampere lo credo. Non so che moto questo, sono 3-4 ampere, però l'alimentatore, quello piccolino che c'è qui, è piccolo, capito? Calda un bel. Sembra che stia prendendo fuoco da un momento all'altro quando parla. No, io il mio l'ho messo un po' distante dall'apparato, ce l'ho sopra il pensile in cucina e a dir la verità lì già ci passa un po' di aria, ogni tanto lo tocco così per vedere, però le alette posteriori, quelle in alluminio, lo fanno raffreddare abbastanza in fretta, seppure trasmetto anche per un'oretta così, lo tocco, tiepido giusto e poi dopo una mezz'ora lo tocco e si è raffreddato. Ah, sì, le alette quelle il dissipatore in pratica. Beh, col dissipatore grande è logico che la fai da subito. Vabbè, adesso il caldo non ce n'è più, perlomeno in casa, ormai c'è questo fresco che entra, quindi anche l'acqua ha cambiato tipo di... Se la metti verso il tavolo la bevi bollente, invece adesso la bevi più fresca. Ho capito, io lo stesso in questi giorni se ho tempo voglio installarmene uno anche in auto, così faccio un po' delle prove. In auto già viene bene, è bello parlare a baracchino, però tu lo porti in giro, ti fai un giro e parli con qualcuno, stando in casa devi per forza usarlo a casa, quindi... In macchina ti puoi spostare, puoi andare con la torre, se vuoi, applicati un gelato a paratamona e parli tranquillamente alla paratamona, lui ti fa compagnia. Che positivo, io infatti lavoro, viaggio quasi tutti i giorni ad Alghero, quindi un po' qua, un po' là e alla fine passo un po' di tempo in macchina, per quello metto un qualcosa di piccolo, però magari gli do un po' di vitamine se non esce bene. Sì, ormai tutti gli apparati nuovi che stanno facendo escono intorno ai 3-4 watt, non di più, quelli nuovi digitali che stanno costruendo. Poi ce ne sono anche altri che pompano molto di più, però dipende da che apparecchio prendi. Se prendi un apparecchio omologato marcato c'è, purtroppo la questione è quella, escono bassi di wattaggio. Eh sì, ma magari ne cerco uno che insomma si possa o aumentare giusto i watt, poi le frequenze usiamo sempre queste. No, io si possono modificare, basta fare una saldatura piccolina oppure dai comandi esterni dell'apparecchio stesso, dalla tastiera, basta la, capito, da 40 canali a 200, e poi per il watt basta regolargli da dentro, all'interno, basta fargli una saldatura, un porticello e sale il watt. Sì, ho visto qualcosa così anche su internet, su YouTube c'era qualche tutorial di come fare, non dovrebbe essere troppo difficile. Più che altro è la sistemazione dell'antenna, perché se la radio dell'auto, l'autoradio insomma, riceve anche scollegandola e magari buttandoci dentro una di quelle preamplificate, quelle interne, riceve così, la scollego del tutto e poi là nel foro dell'antenna ci metto la basetta in maniera tale che poi posso anche cambiare tipologia di antenna. Non c'è bisogno di fare tutto quel casino, c'è il miscelatore, c'è per la 20, che fa 27 e poi utilizza l'antenna del baracchino per l'autoradio, capito? C'ha due uscite di cavetto, c'ha l'uscita con cavetto con PL per il baracchino e poi quella per agganciare lo stereo, per l'antenna per lo stereo, non c'è bisogno di fare tutto quel casino. Togli la vecchia, ci metti l'antenna del baracchino nuova e con quel miscelatore puoi utilizzare entrambe le cose, lo stereo e il baracchino, non succede nulla. Sì, del miscelatore già lo conoscevo, solo che bisogna vedere se c'è lo spazio per far passare il tutto, perché praticamente c'è la luce dell'abitacolo dell'autovettura, devo levare quella piccola plafoniera, cedere e scollegare l'antenna dell'autoradio e poi mettere quello, vedo un po' se c'è lo spazio necessario. Ah beh, tu puoi essere passati solo la basetta, stacchi la basetta e metti l'altra. Dopodiché intanto il miscelatore va agganciato giù, in basso va agganciato, perché devi collegare l'antenna del baracchino al miscelatore e poi dal miscelatore esce un altro cavetto con PL e più il cavetto dello stereo, quindi l'importante è che c'hai il foro da 8 mm per la basetta del baracchino, tutto lì. Se non è 8 mm, vabbè, dovrebbe essere standard. A voglia che già va bene. Ti prendi una PLC 800, una tubo 2001 lì da Fusaro, di quelle corte, va bene, e funziona benissimo, non deve toccare nulla. Una volta che la piazzi, le stazionarie sono 1-1 direttamente dalla fabbrica. Perfetto, a me quello che preoccupa appunto è il foro dell'auto. L'auto è diciamo di 5 anni fa, quindi dovrebbe essere abbastanza recente. Se mi dici che il foro è diciamo standard, non devo toccare niente, dovrei fare anche velocemente. No, il foro già è standard, non ti preoccupare, non devi toccare nulla. Meglio così, Alessio, almeno praticamente stacco, ovviamente lo farò un giorno dalla mattina, mi metto, perché queste cose sai com'è, quando ti metti a fare trovi sempre qualche intoppo e quindi perdi tempo, quindi un giorno che è bella giornata mi metto giù in cortile e faccio tutto con calma una di queste mattine. E ti conviene fare così, almeno utilizzi macchina tranquillamente dalla macchina. Per guardare la Fusaro e ti ordini quel filtro, ti ordini, così almeno sei a posto, sì. E utilizzi entrambe le cose, almeno non devi toccare nulla, fai altro che vedere chiavetta, sollevi lo stereo, gli colleghi quella fare dietro e sei tranquillo, il barattino sotto, lo stereo sopra. Spero di trovarlo questo miscelatore, adesso vedo un po' cosa c'è su internet, se è possibile ordinarlo, se no andrò da Fusaro se ne ha lui già disponibili, magari faccio prima. Dovrebbe avercelo, La spesa più o meno lo sai quant'è? No, non lo so, la verità non lo so. In suo modo, non credo che costerà tanto, immagino. Penso 20, io non penso che costi di più. Ho capito. Sì, adesso la tua radio è perfettamente radio a bomba e il segnale idem. Siamo vicini. Io sono qua di fronte al Conti, figurati. Quindi in pratica, se tu sei lunedì sole, se sei dall'altra parte del quadrato vicino a MD, ha voglia che siamo vicini. Sono praticamente zona bullying a quell'altezza lì, praticamente via Salvatore Dau, su dove c'è quel parco chiuso delle suore, e io sono là dietro, là ho tutto aperto, vedo tutto Piazza Lessegni dal tetto. Ah, io non sei vicino, io Piazza Lessegni non lo vedo più. Da quando mi hanno costruito queste palazzi di fronte a casa, da qui non vedo più niente ormai. Ci sono le palazzine che sono più alte di due piani da palazzo dove sono io, quindi figurati. Se sai dove c'è, dove c'aveva il negozio scarpa, quello che vendeva telefonini una volta, io abito proprio in quel palazzo lì. Ho capito, vicino c'è la rotatoria, mi sa. Esatto, sì, c'è la rotatoria. Io sono proprio di fronte. Capito? Dove c'è il bar di Andrea, sopra il bar di Andrea, Ho capito, sì, la zona. Siamo in linea d'aria vicinissimi, quindi. E a voglia. A voglia, siamo vicini. Comunque Alessio, io ti ringrazio per l'idea che mi hai dato del miscelatore, che pensavo di non fare, però forse è la cosa migliore, così rimangono tutti e due collegati e evito di mettere due antenne separate lasciandone una unica, alla fine farò così. E infatti fai prima, almeno sei più tranquillo. Siccome sono alle prese con un aggiornamento al computer, rimango in QRX un attimo e poi nel caso ci sentiamo più tardi, tra una decina di minuti, un quarto d'ora. E va bene, sono qua, l'ascolto anch'io, non c'è problema, chiama quando vuoi. E Meda, grazie Alessio, a dopo, ciao. Io, ciao. C'è qualcuno in ascolto? già sta guerra contraria, sa prepotenza, e come passa la gente, e il suo popolo a mancare, pare. E tu chi sei? Io sono uomo del vostro CB. Tu sei l'uomo del vostro CB? Sono Cristian. Ah, Cristian, buonasera. Ma dove stiamo andando? La San Camillo, no? No, sono a Budibuti. Ok, dai. Mi sta arrivando Santiago di Sette qui a Ottava, Marino comunque. Avanti Cristian. Ma sei in macchina o sei a casa? Sono in mobile. Ok, dai, Santiago di Sette qui a Ottava, va. Ma stiamo bene, avanti. Santiago 7, sono già a Pasquali, ho parcheggiato adesso. Io vivo bene comunque, io sono Ottava, fidati, Ottava, cavolo. Santiago di 7 a radio di 4, va benissimo, ottimo. Anche la risposta va bene, dai. Il cambio di segnale, fai una cortesia, Cristian. Qual è il passaggio? Guarda, in questo passaggio, prova radio 1, 2, ti trova? Qui c'è 9.30, la sua suite, radio 5, perfetta. Già, va bene, dai, andare. Mi si è attivata la ventola adesso, in questo momento. Ok, siamo solo i soletti, non c'è nessuno. Vediamo se c'è Antonio. Antonio? Bombo! Oh, niente da fare. Ok, Cristo, io guarda, ho sentito il fischio e sono entrato per salutare. Dai. Bene, ti saluto e sei che mi stanno chiamando. Ciao, qui abbiamo sentito, alle prossime. Ci sentiamo, ciao. Buon caricabatteria, dai. Ok, ciao.